Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Intense e forti, capaci di far saltare il cuore in gola, sudare le mani, tremare le gambe. Ad alcuni le emozioni piacciono così. Rischiare, spingersi oltre i limiti è un piacere sottile che seduce e appaga. Succede anche a voi? 800 24 0024. Sensazioni, sensazioni, vogliono tutti provare. Non ci bastano le solite emozioni, vogliamo bruciare. Sensazioni, sensazioni, sensazioni forti. Non importa se la vita sarà breve, vogliamo godere. E io saluto Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, che è qui in studio con me. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Senti un po', Alberto, la voglia di andare oltre i limiti, di cimentarsi in esperienze nuove, è un fascino che si sente molto forte in adolescenza, ma non è una legge assoluta. C'è chi lo soffoca sul nascere, chi lo archivia rapidamente, magari dopo una valutazione dei costi rispetto ai guadagni, e c'è chi invece continua a sperimentarlo anche in età adulta. Ma direi che ciascuno di noi intanto nasce con una predisposizione al rischio oppure con una sana prudenza, e direi che questo, come altri tratti della nostra personalità, ha una combinazione di aspetti innati e di aspetti poi molto legati all'educazione. Se tu ci pensi, un bambino che intorno ai 12 mesi si mette in piedi e deve andare ad esplorare il mondo, è uno che deve correre un bel po' di rischi, che sta cercando emozioni e sensazioni forti nel suo ambiente di vita. Allora, se a fianco a sé ha una mamma con l'occhio sgranato e terrorizzato per ogni capitombolo che quel bambino andrà a fare, questo è un bambino che probabilmente ad ogni passo avverte la sensazione di un pericolo molto forte, e quello sguardo della mamma diventa un filtro emotivo che lo fa diventare un bambino ultra prudente e poco esploratore. Se a fianco a te hai un buon allenatore che con uno sguardo pieno di sostegno, pieno di voglia di farti andare, hai come l'intuizione perciò che il mondo è un bel luogo da andare ad esplorare, è un posto dove fare un bel po' di avventure, probabilmente tu diventi un po' meno prudente e un po' più intraprendente, ecco, cercatore di una sana dose di rischio. C'è poi quel bambino che magari la mamma invece vicino non ce l'ha mai, e conseguentemente il mondo diventa un luogo enorme che ti potrebbe spaventare da una parte o non avere alcun limite. Allora tu vai e ti butti. Se vicino a te non hai un adulto, spesso vai incontro a esperienze incredibili, molto avventurose, ma che possono essere anche spaventosamente pericolose. Non hai chi ti butta dentro il senso del limite e diventi un grandissimo ricercatore di rischi, ma questo ti manca la tara iniziale. Allora, ai nostri amici da casa oggi vogliamo chiedere: amanti del brivido o amanti del corrimano? A quale dei due gruppi vi sentite di appartenere? Chiamateci e raccontateci oggi la vostra esperienza. Se il brivido vi affascina, vi seduce, qual è l'ultima esperienza che avete fatto per provare quella scarica di adrenalina che ci fa sentire così vitali? Chiamateci all'800 24 0024, perché uno di voi riceverà a casa il nostro consiglio di lettura. Oggi, in collaborazione con libreriarizzoli.it, abbiamo scelto per voi Harry Potter e i doni della morte, un libro che sta facendo grande successo. Sì, legato a un film che tra le altre cose genera un mondo di emozioni e di sensazioni fortissime negli spettatori, e soprattutto nei giovani spettatori, che sono particolarmente sensibili allo stimolo delle emozioni forti e delle sensazioni intense. Però, Alberto, noi dobbiamo fare un passo indietro. Parliamo di emozioni forti oggi, ma quali caratteristiche devono avere per essere definite tali? So che ti chiedo una cosa abbastanza difficile, perché l'emozione ha sempre un carattere molto personale. Sì, anche se le emozioni forti sono quelle da cui tu ti senti travolto, che spesso ti tengono in balia, rispetto al quale i tuoi normali sistemi di controllo, gestione, elaborazione emotiva vanno un po' in tilt, per cui sono quelli che ti mandano in blackout, che ti travolgono: la passione, l'innamoramento, la straordinaria paura di fronte a un film dell'orrore. Sono tutti stati emotivi che vengono attivati in modo molto potente, molto intenso, e rispetto al quale la tua capacità di controllo cognitivo, l'usare un po' la struttura del pensiero per poter contenere quello scraripamento emotivo, non c'è. E per alcune emozioni è bellissimo sentirsi travolti da un'emozione molto intensa, quanto quella ti dà una sensazione molto piacevole. Quando tu pensi alle emozioni forti, a che cosa pensi, Alberto? Ma in realtà penso di base all'amore, certamente forse il più grosso promotore, propulsore di emozioni fortissime nella nostra vita, molti connotati che entrano poi nell'area del piacere. Il piacere è fortemente coinvolto nella ricerca di sensazioni forti. Però ti darei anche una parola chiave che riguarda tutti noi, ed è l'adolescenza. L'adolescenza è una fase della vita straordinaria in cui noi siamo fisiologicamente programmati per entrare nelle sensazioni forti, e c'è un motivo proprio neurobiologico, cioè noi abbiamo un nostro cervello emotivo, quello che sente le emozioni e le recepisce, che è praticamente andato, è perfettamente sviluppato, e la nostra invece parte cognitiva, in particolare la corteccia prefrontale, che dovrebbe contenere, gestire, elaborare queste emozioni, che ancora non è così matura, non è messa a punto. Quindi noi siamo molto più in balia del nostro sentire emotivo che del nostro cervello che produce pensieri, ed ecco perché in quella fase le emozioni sono intensissime, fortissime, e i genitori spesso rimangono senza parole di fronte a figli che ne fanno di ogni, vedono film dell'orrore incredibili, vogliono andare su giostre estreme. E poi noi parleremo naturalmente degli adolescenti, un po' la ricerca dell'emozione forte è scritta anche nella nostra genetica, ma parleremo anche naturalmente di adulti. Insomma, il ricercatore di sensazioni forti è lui, è di questa persona che vogliamo parlare oggi, e soprattutto vogliamo sapere se vi riconoscete in questo profilo. Qual è la cosa più estrema che avete fatto? E se non siete ricercatori di sensazioni forti, vi è capitato di conoscerne qualcuno, oppure ne avete uno a fianco? Chiamateci, perché il nostro consiglio di lettura di oggi vi aspetta: Harry Potter e i doni della morte. Le montagne russe, canta Ronan Keating. Salire sulle montagne russe, Alberto, è una scorciatoia non indifferente per provare emozioni fortissime. Il cuore salta in gola, le gambe tremano. Io lo racconto per sentito dire, perché non ho mai avuto e non avrò mai il coraggio di salirci. Guarda, quella è veramente una prova del 9 che immediatamente permette di classificare le persone in ultra prudenti, ultra avventurose o normalmente intraprendenti. Tu sei un ultra prudente, cioè il fatto che hai la tua parte cognitiva che immediatamente vuole limitare la sensazione estrema che ti potrebbe dare una giostra come le montagne russe, che in realtà vengono proprio pensate e progettate con per fare una paura. Tensione incredibile alla neurobiologia del nostro cervello. Ogni singolo particolare di queste attrazioni è fatto in modo tale da attivare il tuo cervello, così da dargli la sensazione naturalmente artificiale di provare un'emozione estrema. E in linea con noi abbiamo Paolo Viarengo, marketing manager di Gardaland. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non salirò mai sulle montagne russe. No, ci salga, che vedrà che sei diverso. No, non ce la farò mai, ma so che Alberto mi racconta che quando le prova e porta, no? Anche... Abbiamo fatto un viaggio sul Velociraptor, che forse è l'attrazione nuova di quest'anno, ma è in realtà proprio uno di quegli esempi di attrazione dove ogni singolo particolare è stato pensato e progettato per dare una sensazione estrema. Insomma, c'è una scienza che progetta le nostre sensazioni di paura. Sicuramente sì, intanto se mi consente la correggo, si chiama Raptor, l'attrazione, non Velociraptor, ma questo è solo un dettaglio. Sì, diciamo che quello dell'adrenalina è una delle, tra virgolette, come noi diciamo in termini di marketing, esigenze che ci vengono dai nostri visitatori, in particolare da quelli più giovani, e quindi noi cerchiamo di andare incontro a questa, desiderio, a questa voglia di vivere delle sensazioni forti da parte del nostro pubblico. Queste attrazioni sono effettivamente studiate per cercare di fornire delle sensazioni forti. Questo si ottiene sia con l'altezza dell'attrazione, con la velocità, con le figure che con l'evoluzione che compiono i vagoncini sulle attrazioni, e anche con degli accorgimenti scenografici. Ad esempio, in questa nuova attrazione noi abbiamo incluso degli elementi che tecnicamente si chiamano near misses, cioè sono degli ostacoli sfiorati all'ultimo istante. Praticamente viaggiando su questi convogli si ha la sensazione di andare a scontrarsi contro degli ostacoli fissi. Questo per fare in modo di aumentare ancora di più l'impatto dell'esperienza dei nostri visitatori. Tutto questo e le ricerche di mercato che noi facciamo ce lo dicono, va incontro a un desiderio, io parlo dell'esperienza del parco di divertimento, certo, ovviamente, un desiderio di vivere un'emozione forte, ma in senso assolutamente sicuro, certo, e consapevole. Questo è un po' quello che vogliono i nostri visitatori. Mi scusi, dottor Viarengo, ma negli ultimi anni c'è sempre naturalmente questa scienza che progetta attrazioni, ed è tutto, no, pensato per produrre scariche di adrenaline. Produce attrazioni sempre più sofisticate, in cui ci sono degli effetti sempre più speciali. Insomma, è cresciuta rispetto a 10 anni fa. Noi provavamo paura per delle cose forse più semplici? Forse sì, direi che io adesso non sono un sociologo, quindi non vorrei andare a infilarmi in terreni a me sconosciuti, però gli inglesi la definiscono sensation seeking, cioè la voglia di trovare delle sensazioni molto forti. Questo si riflette ovviamente all'interno anche di un parco divertimento. Noi nel nostro settore vediamo due fenomeni emergenti, o che sono già emersi da qualche anno in questa direzione. Il primo sono il cosiddetto una rivisitazione di quello che è tutto legato al mondo dell'horror. Sì. Noi abbiamo, noi in Italia ma anche all'estero, introdotto delle nuove case degli orrori dove si propongono anche qui delle emozioni forti al nostro pubblico. E poi quelli che sono così, che è l'emblema di un parco di divertimento, che sono le montagne russe, si è evoluta molto in questi ultimi anni, dal classico ottovolante dove il vagone saliva poi scendeva per gravità, siamo arrivati a delle attrazioni in cui la partenza è da fermo e viene lanciata quasi come con un lancio di una fionda, quindi con delle accelerazioni veramente molto forti. Queste sono, diciamo, che quella degli ottovolanti lanciati è l'ultima tendenza in campo delle montagne russe a livello mondiale. E qua potremmo chiedere ai nostri genitori magari di intervenire anche in diretta, cioè la ricerca di sensazioni forti che connotava la nostra preadolescenza e adolescenza si è completamente modificata nei nostri figli. Da che cosa ve ne siete accorti, e voi come adulti come in qualche modo interpretate questo bisogno di sentire cose molto molto forti, molto intense nei nostri figli giovanissimi? Intanto io saluto il dottor Viarengo, che grazie dottore. Alberto, ci sono tanti modi, no, per cercare un po' di brividi, ci sono veramente, abbiamo una scelta abbastanza ampia. Sì, io direi che uno è proprio quello che si concentra sulla voglia di sensazione, quindi deve attivare nel nostro cervello quella scarica di adrenalina, ed è proprio il meccanismo delle montagne russe. Ma se noi guardiamo per esempio quello che fanno gli adolescenti, ma spesso anche noi, per esempio intorno ai 40 anni, che è un'età di svolta, spesso andiamo a cercarci nuove esperienze di vita, nuove attività, un nuovo lavoro, a volte un nuovo amore, e lo facciamo correndo un rischio. Tutte le volte che proviamo sensazioni forti, il rischio del fallimento è davvero molto molto forte. Tu fai qualche cosa e non sai come andrà a finire, e questo ti dà incredibilmente una scarica di adrenalina, ti attiva e ti fa sentire molto forte. Però ci sono proprio esperienze, e di nuovo provate a pensare a un figlio adolescente che decide di cominciare a suonare uno strumento musicale, salire su un palco, fare la sua prima performance davanti a un pubblico. Questa è un'esperienza molto diversa da quella di semplicemente salire su una montagna russa, perché nel proprio kit degli attrezzi per la crescita mette via molte competenze, mette via molte abilità, molte capacità. Per cui cercare sensazioni forti è una spinta molto propulsiva, molto importante nella vita, soprattutto se ci direziona verso il miglioramento di noi stessi. E abbiamo in linea con noi Marco, che ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a voi. Siamo qua per lei. Volevo raccontare la mia esperienza, una delle mie emozioni più forti. L'ho provata, io sono un subacqueo non professionista, insomma sportivo, sì, amatoriale. E ho avuto esperienza di incontri favolosi in mare. Una volta però in particolare io e il mio gruppetto di amici siamo stati letteralmente circondati da un enorme branco di squali martello ad una discreta profondità nel Mar Rosso, e credo che non dimenticherò mai più quelle immagini. È stata un'esperienza direi addirittura sconvolgente in qualche modo. Che cosa pensate in quell'istante, se si pensa a qualcosa quando ci si trova in quelle situazioni? Ma ci siamo anche confrontati con i miei amici. Io ho mantenuto un certo distacco, una certa freddezza, non ho pensato di essere un predato. Sì. Altri invece hanno avuto questa sensazione. Quello che mi ha colpito di più è stato semplicemente la curiosità che unisce, non so, dal pesce pagliaccio allo squalo martello lungo 5 metri, e questa loro curiosità nell'andare a esplorare ciò che li circonda. Ecco, questo mi ha colpito molto. Grazie Marco. Adesso Marco è il primo ascoltatore che ci racconta la sua esperienza. Noi siamo in cerca di avventura. Raccontatemi la vostra e uno di voi riceverà a casa Harry Potter e i doni della morte in collaborazione con libreria Rizzoli.it. Insomma, con gli squali martello, Alberto, a te non ti è mai capitato? Quella è proprio... Questo non ti capiterà mai. La base dell'emozione più forte, la paura di essere assalito e ucciso, quindi la scarica di adrenalina genera paura che serve poi a innescare il meccanismo della fuga, della messa in salvo. Dobbiamo dare i mercati, avremo in linea Monica d'Alessandria. Posso sentire rapidamente Monica, perché voglio fare una scorpacciata di avventura grazie ai vostri racconti, e voglio soprattutto che uno di voi riceva a casa Harry Potter. Monica, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche al dottor Pellai, che ho avuto modo di conoscere in una delle sue conferenze. Io chiamo Alessandria, probabilmente potrebbe anche venire in mente, ho tre figli, è normale, 11, 9 e 6 e mezzo. È normale invece che noi siamo in questo senso un po' anormali, che fortunatamente ancora non c'è questo bisogno di ricerca del pericolo, dell'horror, dell'adrenalina, ma siamo ancora comunque in una fase tutto sommato di latenza in un certo senso, ma sì, Monica non l'abbiamo sentita tanto bene, ma Alberto, praticamente a casa di Monica, che ci chiama da Alessandria all'800 24 00 24, nonostante tre figli, siamo ancora in un momento di è calma. Ancora presto. Ecco, ma attenzione, quando sembra la calma piatta, poi improvvisamente basta una folata di vento e voilà, tutto si trasforma. All'improvviso tutto si accende. Saluto anche io Monica. Non gliela gufo, ma dico che l'aspetti. Essere e benessere. Forse c'è un Indiana Jones che sonnecchia in ciascuno di noi. Magari ha fatto capolino una sola volta, ma che soddisfazione. Volete raccontarmi la vostra esperienza? Portatevi con voi allora sulle montagne russe 800 24 00 24 e alle prese con avventure degne di un vero Indiana Jones il nostro prossimo ospite, che è Vincenzo Venuto, biologo e conduttore di Missione Natura, in onda tutte le domeniche alle 21.30 sulla 7. Vincenzo, che bello! Buongiorno a tutti. Senti Vincenzo, sembra proprio che tu l'avventura ce l'abbia nel sangue, perché con grande disinvoltura e grande sicurezza tu ti muovi tra serpenti, animali feroci, in ogni angolo della terra, in imprese che per noi, almeno assolutamente per me, ma per tutti i tuoi fans, hanno dell'impossibile, dello straordinario. Ma che tipo sei? Io sono anche abbastanza pantofolaio, devo dire la verità, quando sono a casa. Però sì, devo dire che il segreto è divertirsi e mi diverto molto a fare quello che faccio. E prima o poi, lo dico sempre, crescerò. No, non crescere. Diventerò un po' più grande e smetterò di fare un po' il pazzo. Senti, ma tu hai avuto magari in qualche occasione per lavoro o magari nella vita l'impressione di aver osato troppo, di essere sul limite, un po' sul filo del rasoio, a pensare, ecco, qua forse sto esagerando? Sì, è successo una volta, ma a dire la verità non me ne sono accorto. Mm-hmm. Me ne sono accorto soltanto riguardando le immagini che poi ha girato l'operatore con cui lavoro, Federico. Eravamo sott'acqua in Sudafrica, sentivo prima che parlavate di squali. Sì. Per cui eravamo a fare delle bellissime immagini al largo di Durban, vicino a Uncomas, con gli squali tigre. E avevamo quattro squali tigre intorno, più un centinaio di black tip, dusky shark, sono squaletti un po' piccoli. Sì. Insomma, c'era questo carosello di squali fantastico. Io me li sono goduti, li ho accarezzati, li ho toccati, li ho avvicinati, ho fatto qualsiasi cosa. A un certo punto, visto che aveva finito di lavorare, volevo lasciare Federico tranquillo a fare i dettagli, insomma, quello che serviva, sì, per fare il nostro documentario, io sono risalito di 5 metri e mi sono messo a guardare Federico che lavorava. Non mi sono accorto che uno squalo tigre, non enorme, era stato sui 3 metri, incuriosito dalle mie pinne, mi si è avvicinato da dietro e ha iniziato ad annusare, ed era probabile che arrivasse un morso. Ma solo perché loro non perché sono pericolosi, ma perché è come per noi toccare. Sì. E a quel punto è sceso Mark Edison, che è un signore con cui abbiamo fatto... io ho sentito soltanto una spinta, cioè qualcuno che mi spingeva, e poi lui che dava un cazzotto, uno squalo. Oddio. E alla fine, poi rivedendo le immagini, sono accorto che lì forse ho rischiato qualcosa. E devo dire che quando Vincenzo ci ha detto crescerò, ci sta dicendo che lui è un vero esploratore. Bisogna rimanere un po' adolescenti per godere anche del piacere, delle sensazioni forti. E se ci pensi, quando uno diventa veramente adulto, poi la sua razionalità controlla in modo totale il rischio e lo evita in ogni modo. Per cui effettivamente il cercatore di sensazioni conserva dentro di sé l'esploratore che c'è nel bambino e nell'adolescente che siamo stati. Noi, Vincenzo, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci le loro avventure, perché vogliamo poi che l'avventura più avventurosa possa essere scelta da Alberto Pellai per ricevere a casa Harry Potter e i doni della morte. Io voglio farti parlare con un mio ascoltatore che scelgo a caso, anzi non è che lo scelgo a caso, perché ha chiamato il primo di questo elenco, che è Ferdinando da Milano. Vediamo se è un avventuroso o se è uno attaccato al corrimano. Ferdinando, buongiorno. No, buongiorno, sono un avventuroso. Lei è un avventuroso. Sì, volevo suggerire a lei come superare la paura delle montagne russe. Sì. Vai in un aeroclub, sì, trovo un pilota giusto, sì, con un bimotore, mm, e questo lo porta in una vallata, mm, e le fa le stesse evoluzioni delle montagne russe. È solo che lei lì capisce quello che sta facendo il pilota, poi fa l'evoluzione, poi rallenta, fa un volo livellato e poi ripete ancora la cosa. Quando lei va sulle montagne russe è ben tranquilla. Insomma, mi vuole mandare sulle montagne russe, mi suggerisce questa io non ci vado. E anche Vincenzo Venuto, ecco. Io ho paura delle montagne russe. Ah, bravo, perché non ci salgo neanche se mi pagano. Vedi, magari Vincenzo, vogliamo seguire insieme il suggerimento di Ferdinando? Sì, ho provato col pilota anche a fare quelle cose, ma non mi è passato. No, non è passato. Senti, i tuoi bambini sono avventurosi? Ma sulle montagne russe sicuramente più di me. in questo momento stiamo andando comunque in vacanza e l'idea è quella di andare a vedere gli orsi, i lupi e fare un po' di cose, per cui vedrò di tirargli fuori l'animo avventuroso anche a loro. Grazie a Vincenzo Venuto per essere stato con noi, buone vacanze, buoni orsi. Io volendo vi posso mandare, perché vorrei partecipare anch'io al premio. Sì. Però ho scritto un po' di avventure in un libro che uscirà l'8 di settembre. Allora intanto, ma volentieri, volentieri, io lo aspetto, lo leggeremo e poi ti vogliamo qua per tutta un'ora. Grazie a Vincenzo Venuto. E andiamo a Luca che ci chiama da Novara. Buongiorno Luca. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Lei è un po' un Indiana Jones? Io sono un po' un Indiana Jones, sì. Mi piace cercare un po' il brivido. Che cosa le dà il brivido? Lo sente proprio qualche cosa di fisico? Quel pizzicorio sulla schiena che ti blocca e magari ti fa fare anche qualcosa di azzardato, che ti avvicini al pericolo e cerchi però di non caderci dentro. Certo. La sensazione più bella che ho avuto è stata, più forte, che è stata durante un'immersione anch'io, non con uno squalo tigre ma con uno squalo bianco. Ero in California, sì. E ho fatto un'immersione, prima dell'immersione si fa un briefing, chiedendo se c'erano grossi pesci, la presenza di squali soprattutto. Sì. Dopo che mi era stato assicurato che non c'era assolutamente per il periodo nessuno squalo nei paraggi, scendendo con una guida americana, la guida mi ha segnalato uno squalo. C'è un segnale apposito che i sub conoscono molto bene. E poi l'ho vista schizzare su, via, impallonato, è scappata. E lei? E girandomi, io avevo la telecamera perché mi piace anche riprendere un po' sott'acqua, mi sono ritrovato questo enorme squalo bianco che mi è passato di fianco, vicino. È molto impressionante perché l'occhio dello squalo bianco sembra una biglia da biliardo, molto, molto grossa. E basta, se n'è andato. Non mi ha assaggiato, non mi ha annusato. No, non l'ha spinta. Mi ha solamente accarezzato e passandomi vicino e poi... Brivido di squalo. Un brivido di squalo, sì. Grazie è a Luca. Molto, molto bello. Luca, se ci vuole mandare delle immagini, noi le guardiamo volentieri. Così volentieri. Ci vengono i brividi anche a noi, sulla schiena. Andrea da Bologna, buongiorno. Buongiorno, mi sentite bene? Perché sono ancora in macchina e devo cercare di fermarmi. Sì. Adesso ho trovato finalmente. Eccolo qua, il nostro Andrea da Bologna. Ci racconti, Andrea? Ma molto, molto brevemente, prima di tutto sono un appassionato di Harry Potter, quindi magari se riesco certo. Vado a vedere il film, comunque mi accontento anche del... Uno può fare tutte e due, ma insomma, Andrea, è Alberto che sceglie, è il nostro esperto di relazioni interpersonali, io darei un libro a ciascuno di voi, quindi Andrea. Va benissimo, vi saluto intanto perché fate un'ottima trasmissione. Io mi ritengo anche molto avventuroso, ma fin dall'adolescenza, io ho 54 anni oggi. E da bambino, da ragazzino non ho mai avuto paura, tanto per parlare di montagne russe, ma le montagne russe forse sono i meno anche adrenalinici, perché ci sono stati dei tagadà, delle cose stranissime che ho fatto fino anche qualche anno fa, ma non avrei difficoltà a fare neanche adesso. Ma questo per dire che mi è sempre piaciuto provare adrenalina, ma adrenalina pura, a livello anche di attività molto sportive. Io mi ritengo molto sportivo. Diventai anche istruttore di vela e da lì è diventata, ho trovato veramente dei brividi quando... Qual è il brivido che ha provato di recente? Quando ho fatto un campionato mondiale ho visto disalberare molte barche perché c'era una burrasca in corso, noi ci siamo messi a secco di vele e abbiamo aiutato una barca che purtroppo gli si era... Aveva perso. L'albero non poteva più comunicare con i soccorsi, la marina non si poteva avvicinare perché erano a ridosso di un'isola Noi a motore lentamente le abbiamo tirate un po' fuori in maniera tale. Quindi, che come si dice, calma e sangue freddo. In queste situazioni chi cerca l'avventura deve poi avere questa caratteristica. Andrea, grazie. Noi intanto in chiusura di trasmissione faremo sapere l'ascoltatore l'avventura che riceverà a casa Harry Potter e i doni della morte. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo tornati insieme e in linea con noi abbiamo la dottoressa Monaco, che è psicologa dello sport. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a lei. Dottoressa, sport estremi, ci sono proprio persone che sono attratti da questo genere di sport. Che cosa trovano? Perché lo fanno? Che tipo di piacere cercano? Sì, gli sport estremi sono stati oggetto di numerosi studi sia da parte della psicologia della personalità che della neuropsicologia, quindi di coloro che studiano in particolare i meccanismi biologici e neuropsicologici che possono spiegare questa tendenza a ricercare sensazioni forti, che è stata chiamata novelty seeker o seeking o anche sensation seeking. Quindi questi ricercatori di sensazioni estreme sembrano motivati da particolari tratti di personalità che sono stati riscontrati e sono stati studiati, sono più presenti in queste persone, quindi sono semplicemente delle differenze di personalità, e in taluni casi si è cercato, questo ancora è da verificare, di mettere in relazione anche la presenza di questa ricerca di sensazioni forti con dei meccanismi biologici diversi che funzionano in una maniera diversa nel cervello, per cui ci sarebbe questa ricerca di sensazioni che tendono ad attivare maggiormente quindi la produzione di queste sostanze attivanti a livello neuropsicologico, quindi come adrenalina e dopamina in particolare, che sono state studiate. Questa ricerca di sensazioni forti che ha fatto sì che ha portato a distinguere anche tra tipi che ricercano maggiormente il brivido e tipi che invece sono particolarmente prudenti, quindi c'è anche qualche ricerca che ha fatto proprio questa distinzione tra i cosiddetti big T, la T sta per thrill, brivido in inglese, e quindi questa tendenza a ricercare all'estremo la scossa, il brivido, e dall'altro lato invece queste personalità molto prudenti, estremamente prudenti. Troppo. Quindi le cosiddette personalità aggrappate, così sono state definite a corrimano. Ecco, come le ha definite anche io in apertura. Dottoressa Monaco, ma ci sono delle persone che affrontano queste sfide estreme come se fossero una sorta di vaccino contro la paura. Può funzionare? Certamente bisogna vedere quale livello di estremo e quale livello anche di rischio c'è dietro a questo estremo, naturalmente. Certo, oggi vengono utilizzate anche come delle forme di terapia, tra virgolette, nel senso che poter effettivamente gradualmente affrontare delle esposizioni a situazioni paurose e in particolare anche alla possibilità di tollerare delle reazioni del proprio corpo, quindi le reazioni che sono associate per esempio alla produzione di adrenalina, il batticuore, quelle reazioni che sono da brivido e che per qualcuno sono paurose anche in piccole quantità, quindi la possibilità di potersi esporre gradualmente può essere una forma di avvicinamento e quindi di terapia. Come mi ha suggerito infatti un ascoltatore per vincere, io non è che abbia paura delle montagne russe, proprio non ci vado, non le considero. Dottoressa Monaco, grazie per essere stato con noi. Nulla, buona giornata. Grazie. Di un vaccino contro le emozioni forti, Alberto, avrebbe forse bisogno chi, andandole a cercare, se ne trova poi ingabbiato. È il giocatore d'azzardo, Alberto, figura e persona che viene sempre più studiato dalle ricerche e dagli esperti. In linea con noi abbiamo il professor Alfio Lucchini, che è presidente nazionale di FederSERD, la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professore, il giocatore d'azzardo cerca nel gioco delle emozioni impossibili. In fondo non gioca più per vincere, non solo per vincere, ma per provare quella scarica che ogni giro, io dico di roulette, ma il gioco d'azzardo, no, può essere poker e tutto quant'altro, gli dà. È così? Certo, È così, ci sono ovviamente molte, molte variabili, ma diciamo che il giocatore d'azzardo cerca, seguivo prima la trasmissione, se cerca qualcosa rivolgendosi fuori da se stesso. È una ricerca esogena, mentre prima abbiamo visto diciamo delle ricerche più endogene, più dentro, più sì, dentro di sé. Ecco, spera molto ed è convinto più che altro che vincerà, ma tutto questo lo porta a cadere in un vortice molto, molto pericoloso per sé, per la sua famiglia, per i suoi affetti. Professor Lucchini, come mai sono così in crescita quasi epidemica i giocatori d'azzardo che hanno problemi seri? La risposta potrebbe anche essere semplice. In Italia circa l'80% delle persone adulte, compresi i giovani, giocano qualche volta, ma questo è già un dato importante. Ma diciamo che moltissime sono le occasioni e gli strumenti che vengono messi a disposizione dei giocatori. Quindi il fatto che sempre più persone giochino e sempre più persone giochino a giochi particolari, mi riferisco ad esempio alle slot machine, ai giochi in cui ci sono scommesse ripetute in tempi molto brevi, o a tutto lo sviluppo enorme del gioco online, porta ovviamente, questo è diciamo il principio cardine di tutti i meccanismi che portano a dipendenza patologica, porta ovviamente a tempi sempre più brevi di reazione rispetto al gioco e quindi a scatenare quel meccanismo che noi chiamiamo craving, che noi chiamiamo appetizione patologica verso il gioco, quindi a sentirsi sempre più vicini all'oggetto gioco. Questa è la base di una possibile dipendenza e questo spiega perché, come posso dire, la modernità degli strumenti messi a disposizione, la loro velocità e il loro coinvolgimento portano ad un aumento delle persone che rischiano di diventare dipendenti. Professore, ma come facciamo ad accorgersi che il gioco sta diventando per noi una dipendenza, con tutte queste occasioni a portata di mano? Diventa quasi per alcuni un rito, ad esempio, no? Passare al bar e giocare il grattino, insomma, tutte quelle soluzioni che ci sono adesso. Adesso per vincere con pochi euro delle grandi somme? Beh, ci sono proprio dei campanelli di allarme, dei campanelli d'allarme che sono proprio anche codificati anche dal manuale dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association, ma ne ricorderei alcuni, sì, che così che mi sovvengono. Allora, l'essere sempre più coinvolti in modo crescente dal gioco, giocare delle somme sempre più alte, sì, cominciare a sentire irritabilità, irrequietezza quando si tenta di giocare un po' meno o addirittura di smettere, ricorrere al gioco come una fuga dai problemi, se si perde giocare di più per rifarsi. E poi cominciare alcune cose clamorose, mentire in famiglia, mentire, sì, con gli altri, compiere azioni illegali, non dimentichiamocelo questo, che è molto frequente, mettere, ecco, a rischio le proprie relazioni. Ecco, sono tutti segni, che sono dei campanelloni d'allarme. Sono dei campanelloni e guardi, è clamoroso, questi campanelli d'allarme assomigliano molto, ovviamente, in un altro modo, ma assomigliano molto ai campanelli d'allarme anche per le droghe, per, certo, le droghe classiche che noi conosciamo. Professor Lucchini, grazie per essere stato con noi. Alberto, Harry Potter. Allora, facciamo felice Andrea da Bologna, un vero sensation seeker che ha aiutato però anche la barca in difficoltà a uscire dalla tempesta, dal vortice. Grazie a voi che ci avete seguito, continuate a seguirci e a scriverci, noi abbiamo anche il nostro profilo Facebook che vi aspetta, soprattutto vi aspetto io, come sempre, domani dopo il GR delle 11. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Essere e benessere.